Italians. Italienne. Italianas. Italienische. Italianes. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. Buonanotte e buon pomeriggio. No, ma hai fregato. Cattiva, ti ha reso la pariglia di qualche settimana fa. Ti ho levato del lavoro. Un diritto. Del lavoro. Sei un po' renziana oggi, Maddalena? Sì, vero. Possiamo dirlo? Sì, sì, sì. Benvenute Italiane con la valigia, ben ritrovate, nuova puntata, nuova ospite. Oggi andiamo negli Stati Uniti, nel profondo sud, andiamo in Texas. Ulla. Esatto, a Houston. Non lo so, mi viene in mente... Houston, abbiamo un problema. Ecco. vabbè, insomma. E perché si dice così, Laura, secondo te? Non beh, indagare, ora, per piacere, lasciali un attimo. Ora ho messo insieme i tasselli, comunque. E chi è Houston? Aspetta, aspetta, c'è l'inchiesta, vai. E proprio. Probabilmente ci sarà una base militare che spara i missili così a caso, un po' a caso, sì, sì. No? Oppure sarà un tizio che si chiama Houston e quando c'è un problema Houston viene un po' qua, un po' come Mr. Wolf di Pulp Fiction. Se dateci il numero di Houston, che qui ce ne abbiamo un sacco di problemi. Oggi siamo noi che andiamo da Houston, anzi a Houston, e andiamo a trovare una nuova italiana con la valigia che si chiama Valentina. Valentina è veramente una viaggiatrice di quelle doc, sempre con la valigia in mano, ha girato un po' l'Europa, il mondo, infatti ci parlerà non solo della sua nuova vita negli Stati Uniti, ma anche della sua vita in Europa, precisamente in Polonia. Quindi ci sbarcata in Polonia, state in Valentina. Polonia noi, No, però no. Ci andiamo un po' anche con Valentina oggi. Ah, ecco. Che bel viaggio. Sì, a Varsavia, vediamo un po' questa città, le sue cose interessanti. Grazie Deborah, ci fai fare queste esperienze magnifiche. Hai visto? Tutto al nostro insaputo. Grazie. È bello che c'eravate, ci siete anzi, è bello che ci siete anche tutte e tre. E... Ma lei non c'è, la vedi che non c'è. Cioè c'è, non c'è. Io ci lei. Sono, non ci sono, distratta, lo sai, sono un tipo così, ti ricordi? Sì, nuvola. Non posso andare in bicicletta perché non riesco a guardare davanti, sono sempre io, non è che di colpo... E quando vai in giro un sensore... È vero, che tu sei quella che guardi sempre un po' giro a caso, giro a caso, guido, dopo un po' mi dico dove sto andando. Comunque secondo me lavoriamo troppo, questo è, ci vuole una pausa. Deborah, abbiamo diritto a delle vacanze. Infatti stavo pensando che penso che ad agosto faremo un piccolo mese di break per ritrovarci a settembre, che ne dite? Ci intervistiamo una con l'altra, dove sei sempre a casa? No, magari vi faremo un regalo, vi faremo un video delle nostre vacanze, che ne sai? Mandiamo Laura da qualche parte con la telecamera, Maddalena da qualcun'altra. Dai, ragazze avventura, ci trasformiamo in ragazze, sì, facciamo avventura. Un donna avventura estivo, perché no? Brava, mi piace. Che ne dite? Sì, facciamo sì, un regalo sì, così sì. Alle nostre ascoltatrici. Ok. Per fortuna, prima di partire, possiamo andare a visitare il Texas. E andiamo da Valentina, ciao! Ciao ragazze! Ciao! Allora, raccontaci tutto, chi sei, da dove vieni, da che città sei partita e come mai ti ritrovi in Texas? Quando ero ragazza e ho detto no, ma io in Italia non ci combino niente, voglio studiare giurisprudenza internazionale, andare all'estero e fare... una carriera attivissima e andare via di qui. Per cui mi sono messa a studiare e ho cominciato a fare anche corsi all'estero e poi tramite questi giri un bel giorno, dopo una serie di fallimentari relazioni con uomini palestrati dal curriculum estremamente intimo, ho trovato il tipo intelligente. E qui non intervengo tutto, perché no. Sono ascoltata. Sei ascoltata da qualche palestrato? Meglio prenderne uno serio e renderlo allegro che prenderne uno allegro e tentare disperatamente. Hai trovato questo ragazzo che era serio ma non troppo. Sì, cioè comunque risolvibile. E quindi niente, il problema era che anche lui aveva grandi ambizioni di carriera e tantissime capacità. Quindi a quel punto lì è stato un po' il discorso di dire cosa faccio? Continuo a seguire i miei sogni e le mie cose e rimango zitella a vita. Prima vabbè c'è stato il periodo in cui eravamo fidanzati per cui tantissimi voli low cost, lui stava a Varsavia, stava a Milano eccetera. E poi prima ci siamo spostati a Bruxelles, poi a Ginevra, in un paesino francese alle porte di Ginevra, poi a Varsavia e adesso mi tocca Houston da ormai 6 mesi. Perché lo dici con questo sospiro, mi tocca? Perché ragazzi, allora un conto è il primo espatrio dovuto. Comunque vai, c'è tutta la carica, l'entusiasmo. Poi quando diventa il quarto, sì, da una parte c'è sempre il discorso posto nuovo, cultura nuova. Dall'altra un po' hai le pile scariche, un po' comunque sei anche genitore, quindi comunque inizi a preoccuparti, le bambine sono affezionate all'asilo, alle maestre, eccetera, cioè non è più la tua scelta e basta, diventa anche che la tua scelta comunque la imponi. Io sono figlia unica, quindi potete immaginare con l'Atlantico di mezzo tra i miei genitori, con i miei è un bellissimo rapporto. I miei sono toscani, adesso stanno appunto vicino a Milano, quindi è comodo perché almeno abbiamo 3 aeroporti per trovarci. E in più, ragazze, Houston è tosta, nel senso che America, cioè... America, capisco. Quando esco di casa per andare in macchina al supermercato faccio anche 30 km, soltanto per andare al supermercato perché magari devo andare a quello biologico. E io non guidavo da 13 anni quando sono venuta qui. E quindi è stata una riscoperta, le strade americane e la guida. Vabbè, dai, non hai problemi di parcheggio però. No, la cosa che mi fa ridere è che in questa città mandano l'uomo sulla luna con la NASA, o ci fossero 2 metri di asfalto costruttivo liscio. Niente, cioè proprio la condizione del le strade veramente da selvaggio. No, ma veramente? Houston, abbiamo un problema. Brava. l'aspettavo. Parlo dopo che sono 2 giorni che c'è stata l'inondazione. Comunque con le infrastrutture che ci sono, appunto così decadenti, eccetera, piove 2 gocce e fa l'effetto Genova moltiplicato America, quindi gigantesco. E io sono fortunata perché sto in appartamento al terzo piano, però tutti quelli che stanno nelle casette da telefilm, nei quartieri tipo Wister Lane, eccetera, in questi giorni se la vedono veramente brutta. Male. Io tra 2 settimane prendo il volo e torno a Linate. E passare vacanze? Sì, anche perché partorisco giù in Francia, dove ho partorito già le altre 2 bambine. Ma sei incinta? Oh yes, sono tonda sì. Ma pensa, diciamolo. Quindi è il terzo figlio, la terza? E non si sa, perché mio marito non vuole sapere, per cui devo custodire il segreto. Perché sono 2 femmine le prime 2, quindi sta sperando. No, il mascolo? No, anche le altre volte non lo voleva sapere, e mio marito assolutamente è uno che di calcio non ne capisce niente, ha sempre solo voluto figlie femmine, già al primo appuntamento me l'aveva detto, io sogno 3 figlie femmine e un cane femmina. Anche mio marito è così, guarda, ti capisco, non so perché. Raccontaci un attimo il tuo percorso, adesso ti trovi in Texas da qualche mese, però hai vissuto a lungo anche a Varsavia, mi hai detto. Sì, e lì è stata la fregatura, perché il problema quando sei expat è che quando ti trovi comunque sempre mezzo bene, ma comunque ti manca casa, eccetera, vabbè, riparti, non è un problema. Il casino è quando trovi il posto che proprio, qui sto da Dio, e lì diventa tosta ripartire. Forse Houston non è così tremenda, lo è per me perché ci arrivo qui dopo essere stata a Varsavia. Fossi venuta qua probabilmente dopo Bruxelles o dopo Ginevra sarei stata più entusiasta. Perché Varsavia proprio ti è rimasta nel cuore, come mai? Una bellissima città che sta vivendo un boom culturale, economico enorme, come poteva essere Berlino 10 anni fa, però rispetto a Berlino è più città adatta che a bambini piccoli, perché c'è tantissimo verde, tantissimi playground. Se andiamo fuori all'aperitivo è tutti questi bar nei parchi con le amanti, fritz con gli amici, con tutti i bambini che intanto giocano nella sabbia intorno. Vabbè, grazie allora, scusami se te lo dico, ma mi immagino la realtà che vivi adesso, ho le lacrime agli occhi per te. Sì, no, in Texas che poi è vietatissimo, cioè qua magari non è che ti puoi portare la birretta, perché se ti beccano ti levano il visto subito. Sì. Io non credo che esista proprio quel tipo di socialità a Houston, ecco. Il mio cognato in Pennsylvania va in banca in macchina a ritirare i soldi, non scende dalla macchina. Tu scendi dalla macchina? Sì, quindi devi fare attenzione perché di solito è 1 metro di fango dovunque parcheggi. Infatti lo stivale del cowboy ho scoperto che serve per evitare di essere prendimento nel fango. Quindi c'è un'utilità sociale nello stivale da cowboy, non lo sapevo. Io pensavo, ma col caldo che fa, certo che tenersi i piedi nel stivale di cuoio. Adesso ho capito cosa serve, evitare di essere prendimento infangati. Non diciamolo forte, ma sono a Cincina. No. Questa proprio questa è una news. E anche peggio, perché praticamente le cose cinesi, tanto per l'Unione Europea, devono comunque arrivare a un minimo standard di qualità, mentre qua è più basso, quindi praticamente le robe che i cinesi fanno per noi in Europa sono comunque più fighe di quelle che fanno per gli americani. Cioè qua veramente la roba costa poco ma si autodistrugge. A parte inondazioni, uragani, giustamente tutti i contrattempi della vita in Texas, sei riuscita a farti qualche amica? Quello sì, perché ti dirò, Houston ha tantissimi difetti, però la cosa buona è che ci sono tantissimi stranieri, quindi tutto sommato trovare altri expat è estremamente semplice. Tramite Facebook trovi tantissimi gruppi, le italiane, le canadesi, le americane, le peruviane, le australiane, Houston si infili in questi coffee meeting, praticamente è una specie di speed dating femminile, cioè tu vai a tutti questi caffè e anche trovi le due expat anime gemelle che dici, ho trovato le mie amiche. Come sono i texani? Più o meno, quelli sopra 50 sono tutti biondi con gli occhi azzurri, alla JR molto cortesi, hi eccetera. Quelli più giovani sono più quella puzza sotto il naso che se la tirano, non particolarmente gentili. I latinos, i messicani qua a Houston sono carinissimi, sono quelli che quando sentono che sono italiana e non gringa inglesa subito si mettono a parlare in spagnolo, parliamo la stessa lingua. No. C'è quel momento tipo, sai, italiano, messicano, una faccia, una razza, per cui sì. Senti, e con l'accento come te la sei cavata? Perché io ho due amici texani e all'inizio ho avuto difficoltà. Posso parlare al telefono con le persone perché non le capisco, eppure che sono 15 anni della mia vita che parlo, dormo, sono in inglese. No, io ti credo, perché è veramente sì, è un'altra lingua. Accento allucinante. Volevo chiederti, altri progetti per il futuro, dove vuoi andare? Tu vuoi restare lì o vorresti continuare a viaggiare? Voglio ritornare in Europa. Ovviamente che per me il massimo sarebbe tornare a Varsavia, però cioè basta che mi riportate in Europa, dovunque, anche Aberdeen. Una volta odiavo l'idea di andare ad Aberdeen, adesso pure Aberdeen andrebbe benissimo. Ah, addirittura. Sì, no, tra l'altro sarei contenta perché sapete che oltre al mio blog ho anche questo blog Amiche Diffuso e c'è la ragazza Serena che sta a Melbourne che prossimamente andrà a stare ad Aberdeen, per cui adesso nella mia immaginazione romantica dico, vedi, almeno fosse ad Aberdeen avrei la Serena poi in arrivo. E no, quindi spero l'Europa, però probabilmente prima che questo si realizzi ci vorranno ancora un paio d'annetti. Tieni duro e continua a scrivere sul tuo blog tutte le tue novità. Tra l'altro volevo anche chiederti come è nato questo blog. Ho iniziato a scrivere per disperazione alla fine del 2010 perché mi sentivo un po' sola lì a Ginevra, insomma ero anche appena sposata, avevo appena smesso di lavorare, quindi dovevo ancora elaborare il concetto che veramente avevo messo da parte la mia carriera. E a quei tempi lì non c'erano tanti expat blog in lingua italiana, erano più che altro in inglese. Ed è così che effettivamente ho cominciato a conoscere un po' di altre italiane anche dello sparse. E sono rapporti che sono diventati lunghi, perché ormai sono passati 5 anni, è da tanto che ci teniamo in contatto, poi ci siamo anche incontrate di persona. Diciamo che il blog è nato come tanti blog nascono, per self-therapy, cioè inizio a scrivere per tirarti su. Poi è diventata una sfida divertente perché soprattutto io mi sono lanciata molto nel discorso di parlare della mia esperienza di viaggiare con bambini piccoli, perché comunque viaggiavo tantissimo da sola, prima con una, poi con due e ora con tre. Per fortuna non l'ho chiamato mamma Ginevra. Come l'hai chiamato? valentinavaselli.com. il titolo è The Greatest Gift, un racconto americano, il più grande regalo su cui poi hanno basato il film La vita è una cosa meravigliosa. Quindi essendo distaccato dal discorso luogo geografico e mammitudine, me lo posso tenere per i prossimi 50 anni, anche quando diventerò nonna, eccetera. Brava, brava, brava. Bello vedere così lontano. Vorremmo ringraziarti per essere stata con noi, Valentina. In bocca al lupo per tutto. Grazie, è stato un piacere incontrarvi così online. E un bacione a tutte, grazie mille. A presto. Ciao. Ciao. Io sono rimasta scioccata comunque di questi stivali cinesi. Hai in visto? Texas, cavolo, il Texas è uno dei paesi più rinomati negli Stati Uniti per insomma i cowboy, i ranch, e hanno gli stivali cinesi. Mi è sceso un mondo. Sì, veramente. Un mito, volevo dire. Mi è sceso un intero mondo. Mi è sceso un intero mito. Credo che ormai sia tutto così, un po' questo made in China sia un po' ovunque. No, ma io vorrei chiedere magari se c'è qualche italiana con la valigia in Cina, perché non ci siamo ancora state in Cina. Brava. Ci piacerebbe andare. Magari in Cina c'è made in America. Sì, magari in Cina fanno il made in Italy. Sì, lo troveremo. Magari, che ne vendono sai? Vendono lì, il made in Italy lo vendono lì e qui no. È vero, no, comunque è vero, è sempre più difficile da trovare, va bene, comunque noi non siamo difficili da trovare perché siamo un po' ovunque in rete, abbiamo un sito www.italianecolavaligia.com, bravissima, e una pagina Facebook. Italiane con la valigia. E anche Twitter. Sì, e l'email. Ecco, dici podcast.italianeconlavaligia@gmail.com. Fantastico. Mamma mia, vedi che non memoria. Prende il primo assist, ma poi sì, fa sì, gol. Io sono un po' come mi metto, perché me l'avete detto prima, quindi ora me lo ricordo. Tra un'ora ho già dimenticato. Perché vado in giro con i bigliettini, veramente? Mi sai, avete visto il film Memento? Sì, ho capito. Tu sei quella che ti scrivi promemoria sulle esatto, mani. Quindi ho una memoria di un'ora, mi ricordo. Anch'io ultimamente comunque. Poi cancello. Pesce, pesce, ragazze. Sì, pesce. Sì. Più no, pesce, per il fosforo. Pesce. Vedi? Ci vuole tanto pesce per Poisson. Il fosforo. Che Poisson? Cosa? Pesce. Pesce. Fish and chips, il piatto preferito di Laura. Vi salutiamo, ragazzi. Appuntamento la prossima settimana. E come sempre, buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Ecco, vedi, mi vedi? Deva sempre il diritto del saluto. Sì, ti ha tolto il diritto. Renziana, te l'ho detto. Di ciao, au revoir.